pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io ieri promisi agli amici su Facebook che oggi avrei fatto una confessione alla radio, però non so proprio se farla perché non ci faccio una bellissima figura. Però lo faccio, tanto ormai peggio di così non potrei andare nell'esposizione del mio privato alla radio. Dunque, io dai 14 ai 20 anni circa ebbi per la motocicletta una passione pari se non superiore a quella che oggi hanno i ragazzi per la PlayStation. Cominciamo io e mio secondo fratello, che aveva un anno meno di me, a smontare le motociclette degli operai e dei contadini che avevamo a portata di mano, perché ci appassionavano, perché erano dei meccanismi di cui volevamo vedere il segreto interiore. Cominciamo a costruire su queste motociclette dei mezzi fantasmagorici. Al tempo, parlo del fine anni 60, inizio anni 70. La motocicletta da mezzo di deambulazione per poveracci, per proletari, per impiegati, per persone che non potevano permettersi ancora l'utilitare, sta cominciando a diventare qualcosa di diverso. Si cominciava a vedere, intuire il primo senso delle moto fuoristrada, quindi questi piccoli motom da operaio con un manubrietto e con il telaio elasticamente montato venivano con dei tubi di ferro piegati, con dei tagli alle coperture degli ammortizzatori e con delle mani di vernice minio, che è quella vernice arancione che si usa in campagna per le palizzate, trasformati in qualcosa che con un occhio molto ma molto molto compassionevole poteva sembrare da lontano delle moto da fuoristrada. Con quelle ci facemmo le ossa e poi ricordo lunghi inverni passati in degli sgabuzzini a montare e rismontare motociclette. Voi direte che gusto c'era, era un piacere immenso. Soprattutto in quegli anni cominciavano ad andare in voga i motori a due tempi. Rispetto al motore a quattro tempi, che è molto complesso, ha valvole, bilancieri, smontarlo non è facile, il motore a due tempi è essenziale, è semplicissimo, si smonta in 5 secondi, basta una chiavetta adeguata, si toglie la testata, si toglie la guarnizione, si toglie il cilindro, si prende il pistone e gli si fa di tutto. Era docile, si lasciava toccare, si lasciava accarezzare e si lasciava potenziare, perlomeno nella nostra immaginazione. Quindi con la lima, con la carta vetrata, alzando possibilmente le luci sul pistone, muovendo e lucidando le uscite del cilindro, cambiando soprattutto il carburatore, mettendo immensi carburatori su quei poveri i motorini, cercavamo di ottenere dei risultati meravigliosi. Poi l'unico risultato era sfondare la marmitta, fare un gran casino, ma ci sentivamo degli dèi. Andando avanti nel tempo cominciai a praticare il motociclismo fuoristrada, rischiai la vita tante volte, rischiai l'osso del collo, feci delle cose sconsiderate folli che si fa con l'età, tanto che la mia famiglia, una famiglia molto decisionista, disse le motociclette a casa nostra non entrano perché è pericoloso. Quindi io per molti anni dissi a me stesso, quando finalmente guadagnerò, avrò uno stipendio, la prima cosa che farò, comprerò la più bella motocicletta del mondo e ci andrò. Siamo arrivati all'inizio degli anni Ottanta, il mio primo lavoro, come notorio, con una finta lettera di un zio arcivescovo che mai ebbi, impropriamente entrai in una grande azienda pubblica e iniziai a fare il radiofonico come faccio adesso. Il primo lussuoso e meraviglioso stipendio mi sarebbe arrivato ai primi mesi di novembre anno 1983. Già sfogliavo motociclismo e pensavo, dico, cosa mi comprerò? Non ricordo bene cosa andava in quei tempi, ma si è comprato qualcosa di meraviglioso. Già mi vedevo girare io, piccolo burino ripulito di Perugia, per le strade di Roma con la mia motocicletta. Uno dei primi servizi che mi affidarono fu andare a fare un'inchiesta sulla Torino Magica e lì conobbi una meravigliosa signora di cui ancora sono amico, anche se non frequento, che era, ricordo, la più grande chiromante della Torino Magica, che consigliava gli agnelli, consigliava e sapeva tutto sulla vita sotterranea della città. Mi fu da guida, mi fece fare una bellissima inchiesta sulla Torino Magica, era il periodo che Messore aveva scritto il filo sottile che legava l'incendio del cinema Statuto con alcuni sabba che erano stati fatti in un'altra piazza corrispondente. Quindi l'arcivescovo l'arcivescovo di Torino aveva chiamato tanti esorcisti, quindi era cronaca pura cosa stava accadendo a Torino, quindi avevo motivo per credere che in quella città, io sono perfettamente laico ma sono aperto a tutte le irrazionalità che possono capitare alla mia vita, che qualcosa accadeva in quella città. L'ultimo giorno dell'inchiesta questa signora mi disse: ma ti faccio la mappa del cielo, qualcosa del genere, ti guardo un po' cosa farà, cosa sarà il tuo futuro. Ma io così per facezza dico: ma sì, guardalo, tutto contento, da lì a pochi giorni ho avuto lo stipendio e la mia motocicletta. Mi guardò la mappa del cielo e mi disse: guarda, bellissimo, mi fece alcune previsioni che poi azzeccò in pieno, cioè, però devi guardarti, visto che tu hai il Sagittario in opposizione, non devi mai andare a cavallo. Dico: vabbè, che me ne frega, rinuncerò al cavallo, non è che sia stato un grande frequentatore di cavalli. Poi capì qual era il significato sottile, disse: perché il cavallo ti ucciderà. Dico: vabbè, allora cominciai a lavorare in Rai, il simbolo era un cavallo e quindi c'era qualche sintonia con quello che disse. Ho quasi finito, state tranquilli. Però per essere sicuro, visto che siamo un'epoca moderna, non devi manco salire in motocicletta, perché tu morirai in motocicletta. Beh, guardate, io nella mia vita non ho mai avuto nessun dogma assoluto, ho sempre riscritto e sovrascritto ogni pensiero, ogni ideologia, ogni fede, ogni convinzione, ogni punto di vista, sono sempre stato molto fluido e molto sovrascrivibile. Beh, io da allora non monto più in una motocicletta. E ancora non ci sono mai montato, salvo un paio di volte come passeggero di alcuni amici miei, ma l'ultima amica che mi portò come passeggero a casa in motocicletta si è schiantata una settimana fa e si è appena alzata dal suo letto di dolore. Il piano: percorrere 8.000 km in 4 mesi. Metodo: l'improvvisazione. Obiettivo: esplorare il continente latinoamericano fino ad ora conosciuto solo attraverso i libri. Veicolo: la Poderosa. Una Norton 500 del 39 che cade a pezzi. Pilota: Alberto Granado. Il mio Alberto. Mial. Copilota: il sottoscritto. Ernesto Guevara della Serna. El Fuser. 23 anni. Il diario della motocicletta parla di una sorta di viaggio iniziatico di un giovanissimo Che Guevara, il suo amico Alberto Granado, attraverso l'America Latina. Era una Norton 500 M18 del 39, soprannominata la Poderosa 2. Beh, io la Poderosa non l'ebbi mai per questa sorta di unica superstizione che attraversò la mia vita, che ancora mantengo, però vi sottopongo la domanda: quanto ha avuto senso, quanto ha avuto un profondo e quasi metafisico significato nella vostra vita le due ruote, la motocicletta, questo succedaneo del centauro, questo ricordo di nostre nature semiequine che sicuramente attraversa la nostra memoria biologica? 800 24 00 24. Vorrei sapere il vostro rapporto con la motocicletta. Siate stati voi dei nostalgici, degli smontatori, dei truccatori, dei taroccatori di motocicletta? Abbiate passato come me lunghe nottate a limare pistoni, a montare e rismontare, a mettere olio di ricino nei vostri motori per sentire quell'odore meraviglioso di distruzione di napalm che fa attraversare la città assieme al rumore della vostra marmitta smarmittata, come se fosse una ghiattura, come se fosse qualcosa di apocalittico. Oggi la motocicletta si è trasformata nello scooter, quegli enormi scooteroni che tutti calpestano, dagli impiegati agli agenti immobiliari, ai giornalisti, ai politici, attraversano la città con lo scooter perché si fa prima. Ma lo scooter, secondo me, non ha quel potere devastante della motocicletta, quel meraviglioso e straordinario senso di irruzione nella realtà che ha la motocicletta. Un po' come un rapporto, potremmo dire, tra il vibratore e il martello pneumatico. Sì, dà piacere, fa la sua funzione, ma non ha quella meraviglia e quella ipotesi di devastazione. Sandra, buongiorno. Buongiorno. Qual è il suo rapporto con la motocicletta, attivo o passivo? Allora, io non ho un rapporto personale, ma un ricordo lontanissimo di 30 anni fa, a Buenos Aires, in Argentina, dove vivevo, e avevo questo fidanzato appassionato di motocicletta. E aveva questa lambretta nera, cromata, super truccata, con sedile col poggiaschiena alto, con questo manubrio largo dove mi portava in giro nella città. Lui era un bell'uomo, quindi piaceva alle ragazze, per cui ero molto orgogliosa. Ma lei come montava? Da donna o a cavalcioni? No, a cavalcioni, cavalcavo. Sì, perché lei sa che in quell'epoca, soprattutto con la lambretta, c'era una doppia postura per il passeggero dietro. Io oggi nel mio profilo Facebook ho messo una mia foto un po' d'antan, con una vecchia Vespa, con un'amica posta dietro, però seduta da donna. Una volta le signore sedevano con tutte e due le gambe da una parte, come le Amazzoni ottocentesche. No, invece io cavalcavo questa moto, sennò che lui aveva questa grossa passione, così che il giorno che mi portò a casa sua siamo andati in camera da letto ed eravamo in tre, io, lui e la motocicletta. Cioè l'ha proposto un gioco a tre con la motocicletta. Esatto, la moto che ci guardava, ma fu sempre così per tutto il periodo, per tutti i mesi che ci siamo frequentati. Non ci riusciva se non c'era presente la Lambretta. Lui aveva bisogno di questa bicicletta, di questa motocicletta che ci guardava la sentivo come un'amante sua quasi. Beh, diciamo, eravate una sorta di triangolo amoroso a questo punto. Esatto, a quel punto sì, e addirittura lui studiava ingegneria meccanica e mi ricordo qualche volta di essere arrivata a casa sua e trovarlo in cucina che lui smontava il motore della motocicletta sul tavolo. Lei sta parlando di Lambretta, però scusi signora, di Lambretta, non di è Lambretta, una Lambretta. La Lambretta ha una sorta di ventilazione forzata e per smontarla, anche se un motore a due tempi, c'era una certa complessità, bisognava togliere il coperchio della ventola. So tutto, esatto, sul motore delle Lambrette, perché noi li smontavamo, li rimontavamo per farci dei go-kart, che era una cosa vigliacchissima, però ci piaceva tanto fare questa cosa qua. Beh, la ringrazio della sua toccante esperienza e sentiamo Aldo. Aldo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Mentre prima spiegava la sua esperienza di vita, io mi ci sono visto pari pari, è stata una fotocopia, come era in mano una fotocopia. Anche lei hanno predetto che morirà in motocicletta? No, io anch'io ho agognato la mia prima motocicletta, il primo stipendio da stagionale estivo, mi comprai una moto Morini 125 usata, mi sembrava di il avere... Il corsaro della moto Morini? Sì, sembrava di avere una Ferrari. E poi a 24 anni, visto il lavoro che mi faceva fare 300 km al giorno giù di lì, mollai la moto e l'ho ripresa al sopravvento della sindrome del cinquantenne. Nel senso che verso i 50 anni uno ha una scelta, o si dà una botta di vita e si sceglie un amante, si prende un amante, oppure soddisfa la sua passione. La mia passione era la motocicletta, mi sono consultato con la moglie, lei mi ha detto sì, prendi la moto che vengo su. Beh, grazie, la moglie cosa vuole? Se l'alternativa era quella, di fronte alle corna, è chiaro, preferisce la motocicletta. Certo. Comunque per quanto riguarda la profezia, no, io ho avuto un'esperienza di profezia in India, mi feci convincere a farmi leggere la mano, uno mi disse, guarda, tu avrai un grosso lutto in famiglia. Io tornai a casa da questo viaggio in India, non dissi niente per 4-5 mesi. E chi morì? Non successe praticamente niente, e da quella volta lì ho deciso di non farmi mai più leggere la mano, perché lei magari ha perso 20 anni di moto e magari poi non succedeva. Beh, magari avrà guadagnato 20 anni in qualcos'altro, adesso non voglio fare può essere. Parallelismi, però visto che le alternative erano limitate. Grazie Aldo, niente, auguri. Salve, salve. Marcello. Pronto? Eccomi, mi sente? Certo. Allora, la mia esperienza da 34enne è quella di avere sempre sognato, da quando avevo 14 anni, che i miei amici avevano il motorino e i miei genitori non volevano comprarmelo perché è pericoloso, di vedere questi amici davvero che nei garage li smontavano, li truccavano, cambiavano, come diceva lei, le valvole, i carburatori, e io ero negato proprio, ma avevo una grandissima voglia proprio di partecipare, finché mio padre a 16 anni mi comprò un Malaguti MDX di terza mano, trovato in una cantina, che portammo ad uno di questi miei amici più giovani a ripristinare, e dentro la testata c'era l'acqua, proprio perché il Po, io sono di Cremona, avendo esondato, aveva riempito le cantine ed era pieno d'acqua. Insomma, sì, ma erano motori robusti, nel senso bastava poco a rimetterli in sesto. Capitava. Sì, l'allagamento del cilindro di un due tempi era semplice a ovviare, si dava una pulita, una scarta vetrata, ripartivano sempre. Oggi sono più complesse le moto. E io ho avuto da allora, anch'io con i primi stipendi, le mie prime moto, ne ho avuta una diciamo ogni 3-4 anni, adesso sono sposato, ho dei figli, è la terza che tengo in garage per non usare, ma se non ce l'ho mi sembra proprio che mi manchi la mamma. Io quando vado in garage devo vedere la moto, devo usarla, devo anche fare qualche viaggio, ogni tanto adesso i bambini un po' piccoli faccio un po' più fatica, ma ho un vuoto, ecco, quando la vendo non posso stare 5-6 mesi che ne devo riprendere. Grazie, grazie, trattenga le lacrime. 800 24 00 24, avete visto, abbiamo colto emotivamente un flusso che non si immaginava probabilmente. La motocicletta, non so per quale ragione, non so per quale alchimia, sarà per il vibrante, costante, diuturno rapporto che si ha, sarà per il vento che ti attraversa, sarà perché te la senti tra le gambe fremere e quindi ti può portare a dei pensieri inimmaginabili, lega l'essere umano alla meccanica come un centauro è realmente legato alla sua parte equina. Però qui finora silenzioso accanto a me c'è stato un ospite che probabilmente ha qualcosa da aggiungere, che ho dato un po' di materia di riflessione. Enrico Settimi è un regista e ha girato L'Ambretta, ascesa e declino di un miracolo italiano. Enrico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca, buongiorno ai radioascoltatori. La Lambretta è... La prima signora ha colto subito quello che è l'oggetto della tua osservazione. Assolutamente, per quanto poi il rapporto a tre io nelle mie ricerche non l'ho toccato a fondo, mi sono un po' imbarazzato, mi sono attenuto ai dati economici, ai dati di produzione e alla qualità dei modelli. La Lambretta ha una storia singolare perché ha il suo picco nel 58, esattamente quando inizia, a detta di tutti gli economisti, il miracolo economico italiano, per poi scomparire dalle catene di produzione italiane del 71, cioè quando i favolosi anni 60 tramontano. E i modelli della Lambretta tra gli anni 50 e gli anni 60 seguono perfettamente quello che è il cambiamento della mentalità italiana, il cambiamento della società italiana e il cambiamento delle possibilità di spesa degli italiani. Quindi è corretto quello che ricordo come mio ricordo infantil fanciullesco. Le prime moto, i primi motorini si vedevano con la borsa di pelle attaccata al manubrio che usciva la bottiglia e il pacchetto con la colazione dell'operaio. Poi la moto è diventata un mezzo di piacevolezza nella seconda metà degli anni 60. Assolutamente sì. La Lambretta e la Vespa diventano soprattutto un mezzo per giovani negli anni 60. Mentre prima sono caratterizzati come mezzo economico, negli anni 60 diventano il mezzo per i giovani e anche un mezzo, e qui mi riallaccio alla testimonianza della prima ascoltatrice, peccaminoso. Perché? Perché l'orizzonte in cui vivevano gli italiani negli anni 50 era un orizzonte piuttosto limitato. Sottoposto all'occhiuto controllo del parroco, della mamma, del papà, del maresciallo, del farmacista, per cui i costumi erano forzatamente castigati. La Vespa e la Lambretta allargano improvvisamente questi orizzonti e si può andare in giro per quest'Italia in gran parte ancora rurale. Campagna, certo. Camporella è il termine. Sì. Ahimè, tristemente usato. Allora ti spiego, visto che ci sono passato e posso dare delle esperienze di vita una volta tanto. Allora, c'è un segno inequivocabile del malandrino uso che si faceva del mezzo a due ruote. Era il plaid ripiegato messo sotto la cinghia della sella. Quando si presentava a prendere una ragazza, qualcuno avesse il moto, la moto Morini, la piccola Gilera, la Vespa o Lambretta, c'era un plaid da scacchi infilato sotto il reggisella. La madre non faceva salire la figlia perché sapeva che quella moto aveva già in sé il segnale inequivocabile del luogo in cui si sarebbe andati. Il passo successivo era guardare dentro il bauletto degli attrezzi e trovare la prima scatoletta degli innominabili oggetti che allora erano a senso unico, con una triste scatoletta da presidio farmaceutico con una croce rossa sopra, che significava che la figlia era compromessa. In realtà io ho raccolto anche altri tipi di testimonianze, visto che l'Italia poi è rimasta in gran parte bigotta fino ai nostri giorni, il plaid infilato sotto la sella spesso era un'esibizione senza sostanza. Cioè, naturalmente tutti gli spacconi avevano i plaid, figurati, ecco, hai aggiunto la nota giusta, il plaid da bulletto di paese era fare l'occhiolino e dice guarda, io ce l'ho già pronto, io c'ho il plaid, sono già pronto, c'ho il plaid, vediamo un po'. Buongiorno Cristiana. Buongiorno Gianluca, io non sono un'appassionata di moto, avrei voluto il motorino e non me lo comprarono e quindi la cosa finì lì. Però ho un ricordo legato all'adolescenza molto bello della motocicletta, perché io ero follemente innamorata, avevo 14 anni, di un 17enne che aveva una bellissima moto, ovviamente non ricordo la marca della moto. E io ero innamoratissima e questo non mi si filava, era una cosa terribile per me, finché un giorno, approfittando di uno sciopero a scuola, eravamo a metà novembre in Abruzzo, quindi un freddo bestiale, lui mi propose un giro in motocicletta. Io, felicissima, salì su questa moto, partimmo verso la periferia di questa cittadina. Eri pronta alla dazione, diciamo? Io, beh, no, la dazione magari proprio no. Però, una semidazione, insomma, diciamo. Avrei voluto essere baciata. Ad attività molto esplorative, chiamiamo. Sì, ecco, insomma, comunque pensavo che fosse fatta. E invece questo ragazzo... C'era il Plaid, scusami, c'era il Plaid? No, non c'era il Plaid, era una moto tra l'altro scomodissima, perché era di quelle tipo un po' sportive da corsa, quindi il... Ah, col manubrio basso, sì. E poi io mi attaccai dietro, non mi attaccai alla sua vita, perché comunque mi sembrava un po' eccessivo, insomma. E dove le mettesti le mani? E dietro c'era una specie di un pezzo di ferro che spuntava, sì, quindi io mi aggrappai. Talvolta può dare questa impressione. Tra l'altro ero senza guanti, quindi un freddo, una cosa tremenda. Lui a un certo punto si fermò in un posto un po' isolato e io dissi: ecco, bello, c'è. È fatta, ce l'ho fatta. Finalmente si girò, mi disse: beh, ti piace la motocicletta? Io dissi: sì, carina, certo fa freddo. Sì, guarda, non hai guanti. Invece vedi, io ho questi bellissimi guanti che hanno un'imbottitura di pelle di foca, quindi non sento mai freddo. E stette mezz'ora a parlarmi di questi guanti. Beh, scusami, adesso non voglio entrare in... Il fatto che parlasse di pelle di foca era una chiara e metaforica allusione. No, non era una metafora, perché non ne seguì più nulla. Alla fine mi riportò. Scusa, il professore qua in studio concorda? Assolutamente, cioè parlare di guanti pelle di foca, da che mondo è mondo, è una metafora assolutamente esplicita. Sei tu che non l'hai capita, scusa. No, diciamo che poi lui mi riportò lì, ritrovato. Ma noi Rudy Centauri non andiamo mai direttamente, usiamo delle colorite metafore, dovevi capire al volo, direi anch'io. Sì, io stavo lì pronta, qualcosa di simile. Con la boccuccia così, e lo guardavo con l'occhio su niente, e mi ha riportato davanti alla scuola, è sparito, non ho mai avuto una storia con questa persona. Te lo sei voluto, e questa è la giusta nemesi per non aver capito il linguaggio segreto dei motociclisti. 800 24 0024. Elio, eccolo. Hai risvegliato in me qualcosa di recondito. Sì, ma non pianga, si trattenga il groppo alla gola. Senta, io e un mio amico, un certo Antonio Cerra, non facevamo quello che facevi tu, ma facevamo ancora di più con una lambretta. La mettevamo così a punto che non insistendo sul pedale, ma tenendo giù un calcio, si metteva subito in moto. Vabbè, certo, si toglie... Allora, guardi, io mi ricordo. Ma sai, Il primo sintomo della lambretta elaborata è si toglieva la messa in moto, perché era talmente potente, bisognava metterla in moto con la corsetta. Con un calcio, proprio mettevamo in moto. Poi non facevamo i buchi alle marmitte, come dicevi tu. Noi addirittura, facendo le curve in una strada con curve e contracurve, la consumavamo. Allora, si fermi un attimo. Melog 2.0. Una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo. Beh, che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire, proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli. Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Ecco, quando nel 69 andammo a vedere Easy Rider, ogni Gilera 98, ogni Galletto Moto Guzzi si trasformò in un chopper. Subito i negozi di accessori motociclistici cominciano a vendere il grande manubrio a forma appunto di corna di bufalo e il reggi l'appoggia schiena della sella. Chi non ce l'aveva curvava dei tubi, se lo faccia fare da un meccanico, da un fabbro, e avevano queste moto. Erano totalmente ridicoli, perché era il sogno di attraversare le strade della California quando in realtà si girava per i viottoli di Perugia. 800 24 0024, stiamo parlando di amore per la motocicletta, ma qualcosa di molto più profondo, più viscerale. Abbiamo visto che a un certo punto è cambiato il rapporto tra essere umano e mezzo meccanizzato a due ruote. Ho qui in studio Enrico Settimi e stavamo nella pausa ragionando proprio quanto oggi il rapporto è diametralmente opposto. Assolutamente. Lo scooter negli anni 60 significa libertà, significa emendarsi dal controllo sociale soffocante, E invece oggi lo scooter significa accettare il controllo sociale soffocante, quel controllo sociale che ti impone di schizzare come una trottola da un punto all'altro della città ogni due minuti, e quindi diventa il mezzo di una costrizione, non di una liberazione. Oggi chiunque ha uno scooter, il mondo è pieno di scooter, dai detestati agenti immobiliari con la cravatta, il collo alto, le scarpe gialle a punta e il giubbottino imbottito da cui escono le maniche della giacca, a tutte le mie amiche, colleghe, conoscenti, via dicendo, mi guardano come si guardano appestato. Io volentieri prenderei una moto, non posso se non muoio. Mi dicono: ah, noi con lo scooter ci mettiamo un istante, faccio velocissimo. È il suggello della schiavitù. Invece la motocicletta per noi era la fuga, l'irrazionale, il plaid piegato sotto la sella, la possibilità di uscire dal controllo. Tu l'hai detto giustamente. Ma soprattutto era potenzialità contro atto. Oggi lo scooter è l'atto dell'essere costretti, mentre un tempo la moto era l'apertura infinita a orizzonti che neanche si conoscevano. Mi ero interrotto con Elio. Elio, si è ripreso un po' dall'emozione? Sì, ti ricordo che il plaid era scozzese. Sempre scozzese. Certo, naturalmente in meraviglioso velicren, cioè in fibra sintetica, e faceva le scintille se era notte. Allora, la marmite, ti ripetevo, che la bucavamo facendo le curve, piegandoci tanto e le facevamo. Poi ti voglio dire un'altra cosa, forse questa è inedita. Noi riuscivamo a fare con questo mio amico, mentre guidavo io, mi lasciavo il manubrio destro e mi piegavo sulla sinistra, lui impugnava il manubrio, io mi mettevo sul pedalino, lui passava avanti e io passavo indietro. Vabbè, ma non si chiede fare niente di eccezionale. Io lo facevo con le Vespe, ma lo facevamo anche con le Jeep campagnole a tutta velocità sull'autostrada. E lo facevamo il salto del tettuccio da 127, che il guidatore passava nel sedile accanto. Quindi la vita l'ho rischiata in maniera molto più atroce io. Ma la macchina aveva quattro ruote, noi ne avevamo solo due. Sì, ma vorrei vedere lei uscire con la 127 in velocità dal finestrino, passare sul tettuccio e rientrare al posto di guida. Ma l'ho fatto con le 500 questo. Io con la 127. Ma eravamo stupidi, cioè ognuno rischiava la vita come voleva, però a noi ci piaceva tanto. Grazie Elio. Enrico. Sono io. Cosa hai fatto con il ciao? Con il ciao, ecco, il mio forte... No, il ciao è il primo motorino pubblicamente diffuso, pubblicizzato. Tutti andavano a scuola col ciao all'inizio degli anni 70. Era un ciclomotore a pedali che però funzionicchiava, diciamo. In due era quasi impossibile andare in salita. Il ciao era meraviglioso perché... Sento un po' di ritorno nel telefono. Il ciao era meraviglioso perché si impennava. E si stava poco sulle due ruote, quasi sempre su quella posteriore. Ah, è vero, sì. Ma è ridicolo, cioè come andare in bicicletta. E la cosa che comunque, che è il più bella che io ho fatto, tenga presente che ho sempre avuto le moto, motorini, da 12 anni fino a due anni fa, ne ho 48, era che io partivo da Viareggio con il ciao, con la sella però del boxer. Ah sì, quella allungata che ci stavano in due persone, perché il ciao c'aveva la sella come quella delle biciclette. Sì, e il secondo passeggero doveva montare in piedi sul portapacchi, che era un po' complicato. Bravo, no, ma io andavo con da solo, con la sella, perché era più comoda, perché mi ci appoggiavo uno zaino che portavo sulle spalle, sì, sulla parte, e andavo a Nizza. Partivo Livorno e Nizza col ciao. Viareggio Nizza. Ah, Viareggio Nizza col ciao. Sì, ma più volte lo fa. Mio padre abitava laggiù, io avevo 15 anni. Quante ore ci metteva? Partivo alle 8:30 la mattina, arrivavo alle 10:30, alle 11 la sera. Beh certo. Tutta la via Aurelia. Cioè, io direi un bel po' di ore, avrà avuto dei problemi di non voglio dire, una volta che si alzava non stava molto bene, secondo me, nelle parti basse. A 15 anni forse non ci si faceva caso. Sì, magari gli effetti poi arrivano. Era un viaggio bellissimo, facevo tutta la via Aurelia. E poi quando arrivavo al Ponte San Luigi, laggiù a Monte Carlo, con questo ciao, e continuavo a impennare, era quello il bello, che anche dopo 7-8 ore, facevo, ero veramente felice, il mio Easy Rider era quello. Ecco. Grazie. Passiamo a una donna centauressa, Rosarita. Pronto. Allora, vi rivelo a questo punto un inconfessabile segreto. Rosarita è la persona seduta nel sedile posteriore della Vespa nella foto su Facebook, seduta da donna. Abbiamo posato in questa foto una volta che vidi il suo Vespone d'epoca. Allora Rosarita, tu sei una donna, sei stata femmina dell'Harley Davidson o qualcosa del genere, spiegami bene che non ricordo bene la tua biografia. Esatto, beh, io ho avuto due Harley Davidson, adesso ho una Triumph Bonneville, quindi sono appassionata di moto classiche, diciamo. E niente, la mia è stata una passione tardiva, nata a 35 anni, mi sono presa la patente, ho girato mezza Europa in Harley e adesso in Triumph. Senti, ma qual era il rapporto? Io i guidatori di Harley Davidson so che sono un mondo a parte, una setta a parte, qualcosa di impenetrabile, con le loro liturgie, con i loro segreti di banda, di truppa e di setta. Le donne del motociclista in questo caso era un accessorio della moto come tanti, non era niente di più, mi pare. Beh, diciamo che ci sono due classi di donne motocicliste, le passeggere che hanno effettivamente la funzione di accessorio e invece le guidatrici che hanno uno status diverso e devono guadagnarsi in qualche maniera rispettabilità. Ecco, si acquistano la credibilità avendo questa iniziazione di passare alla guida, ecco. Esatto, e anche sulla base dei chilometri percorsi, perché è sempre una sorta di competizione al chilometraggio. Quindi siete donne molto chilometrate, in questo senso avete una grande credibilità. Assolutamente. Ma chi si porta dietro la donna motociclista? Ah beh, guarda, io mi sono portata dietro un po' di tutto, dalle amiche ad amici, e la cosa divertentissima è vedere quando si gira in moto con un uomo come passeggero, come guarda il mondo. Io devo dire una cosa che amo di più, le rare volte che sono risieduto su una motocicletta ho quasi sempre una donna davanti, quindi è divertente. Diciamo che la virilità ne viene compromessa, perché in effetti chi guida la moto in quel momento è il padrone assoluto della tua vita, perché sei molto esposta alle intemperie, ai rischi, a seconda di come curvi, vedi l'asfalto vicino, non guidando te il rischio, ti senti un uomo, però è piacevole molte volte lasciare la propria integrità in mano a una donna. E adesso con la tua moto cosa fai te esattamente? Come dividi il tuo tempo fra la tua professione e la tua passione? Ma guarda, io attualmente nel garage ho una Vespa d'epoca, appunto, che uso tutti i giorni per le mie faccende quotidiane, e la moto ha un uso più ludico e vacanziero, quindi la uso nei fine settimana per fare giri lunghi e naturalmente per le vacanze d'estate. Le mie vacanze sono sempre in moto. Ecco, poi mi dici un segreto, Rosarita, le donne sono smanettone altrettanto gli uomini. Tu quando devi mettere le mani nel tuo motore, ti tiri sulle maniche e infili le graziose vezzose litine dentro la morchia della tua motocicletta? Guarda, assolutamente, infatti la sfida quando si fanno questi viaggi lunghi d'estate è quella di riuscire a conservare le mie meravigliose unghie integre. Grazie, in cui lo fai anche te, diciamo. Sono in grado comunque di sistemarla. Non ti fa schifo. Grazie Rosarita. Andrea Bigiarini, invece l'altro versante, un uomo che va sulla Harley, un rude, peloso, irzuto orso da Harley Davidson, non mi sbaglio Andrea? Buongiorno a tutti, Gianluca, ciao e un saluto diciamo ai fratelli, tra virgolette, però sono rimasto impresso molto da quello che è andato da Pisa a, non mi ricordo dove, credo in Francia, in Ciao, e quello è un eroe assoluto. A Nizza, da Pisa a Nizza, una giornata e mezzo di viaggio col Ciao, pensa un po'. Sì, un eroe assoluto della strada. No, per riattaccarmi un po' al discorso, forse non so neanche se mi riattacco tanto, però il non so se avete già parlato del rapporto della strada con il motociclista, del rapporto stesso che mentre stai facendo un viaggio che non vorresti mai arrivare. Sì, questo è vero. Tendi ad astrarti con questa striscia sottile di strada che ti passa sotto, che aggredisci, che mangi, che ti lasci dietro, e poi ce l'hai sotto i piedi, la tocchi, e quando devi stiracchiarti un attimo le gambe, che le togli dai pedrellini, quasi sfiori l'asfalto se vuoi, quindi ce l'hai sotto i piedi. Sì, però è anche un rapporto, non vorrei dire un viaggio iniziatico, ma insomma un qualcosa di simile. Sei da solo con questa moto in questo viaggio che non vorresti mai che finisse, e allora ti metti a pensare a delle cose, puoi pensare a delle signore, puoi pensare a delle, insomma, le tue fantasie corrono infine. È vero, me l'ero dimenticato, in motocicletta si pensa tanto, non me ne ricordavo per niente, mi hai dato un flash di non è commozione ma è semplicemente un rantolo di vecchiaia. Senti Andrea, invece il rapporto singolare con certi tipi di moto, ogni moto ha il suo pilota, ogni categoria di motociclista sceglie un tipo di moto. Tu hai scelto una moto che in sé è un brand, ha una sua connotazione molto particolare. Certo, certo. Allora dicono che esistono le moto e poi esistono le Harley Davidson. Salire su un Harley Davidson è un'esperienza totalmente diversa, anche per la posizione. È una posizione, se vorrei dire, da giallettino, da ginecologo, se si può dire. Sì, ahimè. È una posizione molto strana per chi è abituato alle altre moto. O da esibizionista di megalitiche appendici metalliche, dipende dal punto di vista. Sì, macchine d'acciaio e cromo, che però dopo un po' ti abitui a questa posizione, te la senti naturale, e sai però che sei su una leggenda. Sei seduto su una leggenda, sei seduto su un qualcosa che proviene da più di un centinaio di anni, fondata nel 1903, quindi sai, non voglio fare pubblicità assolutamente, sì, vabbè, ma sei seduto sulla storia, e su degli elementi della terra fusi in questa. Grazie Andrea. Melog 2.0. Non ci sono regole per questo viaggio, ve lo siete dimenticato? Certo, andiamo certo. Verso il Pacifico, senza programmi né tappe stabilite. Certo. Chissà dove saremo. Lo so io dove saremo. Dudley mi ha collegato. Guarda questa geggia. C'è un GPS nel mio telefono. Oh, guarda che roba. Veramente? Sì. Fammi vedere, guarda qui. Ma che... Sei scemo, perché l'hai fatto? Per il bene del viaggio. Non ti serve il GPS per scoprire l'America. Ti serve la moto e ti basta la strada, ok? Libertà. E se c'è un'emergenza, il cellulare ce lo hai. Ah no, ce l'avevi! Che... Ma sei pazzo! Perché l'hai fatto? C'era la mia vita lì dentro! Oh, che effetto fa, Woody? Questo film è un po' la metafora del ritorno di fiamma, dell'ultimo fuoco, della illusione del cinquantenne che riacquista la moto, si vuole risentire giovane. Grazie a Dio, momento che ho attraversato, ma sono riuscito a resistere, che ho passato. Sono un cinquantenne che ha davanti a sé le uniche ruote della carrozzella, della sedia a rotelle o del supporto per il sacchetto del catetere, queste cose qua. Quindi ormai ho sorpassato questo momento. Però è interessante, la John Travolta e altri suoi amici attraversano la California su delle moto, diventando rudi, facendo risse con i guerrieri della strada, insomma hanno una sorta di iniziazione tardiva grazie alla motocicletta. Ricordo, stiamo parlando di moto, di passione, con poco senso, con poco costrutto, come sempre è una deriva senza senso il viaggio in motocicletta, almeno inteso nella più tradizionale delle accezioni, non come dice oggi l'ospite che sta su di noi, Enrico Settimi, che ha girato Lambretta, Ascesa e Declinio, di Un Miracolo Italiano. Oggi è una compulsiva maniera di essere più veloci, lavorare più veloci, andare in uno scooter, che non è manco la moto, qualcosa è dai gas e cammina, non devi fare enorme nulla. Spesso lo scooter tipico della gente, sì, ha un culo molto grosso, sì. È un culone lo scooter. Non solo, ma è quantomeno 600 di cilindrata, è una cosa impensabile per le Vespe e le Lambrette che si fermavano a 200. Sì, 200 già sembrava il massimo. E comunque una Lambretta 125 negli anni 50 ha battuto il record di velocità mondiale per 125 andando a 200 all'ora su un'autostrada tedesca. Era truccata in maniera. Sì, era molto, sì, era diversissima, non aveva più le scocche. Questo per chiudere il rapporto con tutti i vari truccatori. C'è chi l'ha mandata a 200, nessuno ha fatto di meglio. Diciamo che la più banale delle truffaldine elaborazione alla portata di tutti era prendere la Vespina Primavera 50, la Prestina 50 e metterci il motore 125, fare una Primavera illecita, che in realtà era uno scooter, ma andava ai 130-140 tranquillamente. Abbiamo adesso al telefono Roberto Parodi. Roberto Parodi, buongiorno. Buongiorno. Roberto Parodi è autore del Cuore due cilindri, viaggi e riflessioni di un motociclista innamorato, la sua Harley Davidson, FBE Edizioni. Non so se hai sentito quello che più o meno hanno detto finora, Roberto. Concordi su questa lettura a doppio senso tra motociclista e scooterista, fra appendice meccanica dell'essere umano e le sue passioni e mezzo di trasporto? Ma certamente. Io nel mio caso la scelta della moto è stata una scelta di uno strumento di sopravvivenza, come lo chiamo io, o magari più semplicemente di un completamento del mio essere, un po' come un musicista col suo strumento o un cuoco con le sue pentole. La moto la vedo come uno strumento di sogno e di immaginazione, non un mezzo di trasporto. Se così fosse, avrei fatto una scelta logica che può condurre oppure all'infelice scelta dello scooter. La mia e quella di tanti altri è una scelta puramente emozionale, e quindi una moto. Tu sei andato in India, hai fatto un mitico viaggio in India con la motocicletta, o mi sbaglio? Sì, sì, io amo molto le mother road, no? le strade madri, e quindi con i miei amici abbiamo fatto tante viaggi di questo tipo. Abbiamo fatto Milano-Dakar, Milano-Tamanrasset, in fondo al deserto del Sahara, e a ottobre ho attraversato tutta la via della seta facendo Milano-Nuova Delhi e perdendomi in Pakistan, andando a finire nelle zone della Northwestern Province, sempre con questa vecchia moto che, di nuovo, non è stata una scelta logica, per cui sarebbe stata magari una moderna BMW, ma invece una vecchia Harley Davidson di 12 anni, di cui però conosco ogni bullone, ogni vibrazione, ed è diventata un po' come il mio cavallo, diciamo. Oggi, diciamo, esiste anche il trash, quindi l'emulazione sbagliata, fallita e coatta di questi vostri viaggi. Sono i burini del fine settimana che fanno romovindoli in 50 con moto roboanti, con le gnocche dietro, microvestite, tutti coperti di pelle, anche se siamo il 15 agosto, e vanno alla trattoria senza ingozzano di tagliatelle e poi tornano la sera a Roma facendo un gran casino, che odio. È vero, ma infatti per alcuni la moto è proprio la fiammata che dura lo spazio di un'estate, diciamo, no? Per altri il mezzo per fare un po' il figo con la gnocca, che peraltro è sempre gradita. Altri la scelgono magari per togliersi uno sfizio, no? E ci arrivano davanti al bar sport, poi sbagliano a mettere il cavalletto, la fanno cadere. Altri magari la comprano, poi si spaventano, no? E allora trovi quelle occasioni meravigliose sui giornali di inserzione. Altri, no? Poi ti dicono: mia moglie me l'ha fatta rivendere. Così. E quindi per alcuni è proprio soltanto un mezzo per muoversi. No, io dico questo con crudeltà, perché di fronte a me ho Alessandro Chiappini, che in realtà è uno di quelli che ha dovuto rivendere la sua motocicletta perché andava troppo veloce. Quando è nato un figlio ha detto: beh, meglio che la moto la vendo. La responsabilità paterna sovrappone alla frenesia della moto. È un po' come abbandonare un amante di gioventù, dire: beh, adesso basta, non ho più l'età, mi accontento del tepore familiare quotidiano. Ti ringrazio mille, Roberto, e in bocca al lupo e buon viaggio in moto. E sentiamo Angelo. Pronto? Aveva 16 anni, ha lasciato la sua ragazza per la moto. Pronto? Sì. Ecco, sì. Buongiorno intanto, sono Angelo, chiamo dalla provincia di Venezia. Niente, io intanto volevo rendere omaggio a un grande motociclista che non c'è più, ed è mio padre. Ed è per lui e grazie a lui se io da 29 anni pratico cavalco la moto. Quando a 14 anni volevo il Vespino, mi guardò e mi disse: insomma, cos'è? Cosa vuoi comprare questa cosa che è da donne, no? Smettiamo di giocare, pigliati una moto. Infatti, lui era un grande motociclista, per me era un grande motociclista, no? Degli anni 50 con le BMW, e girava a mezza Europa. Comunque io a 16 anni mi ricordo benissimo un giorno, no? I festini che si facevano una volta, no? Così, con un mangianastri, un giradischi, e questa ragazza che era un po' ambita da tutto il gruppo, stavo per concludere, insomma. Quando sul più bello degli amici con la moto mi chiamano, mi dicono: noi siamo stufati, andiamo via. Ci ho pensato qualche secondo e niente, volevo stare, gli ormoni spingevano per rimanere. Però interruppe la dazione e scelse la moto. Sì, da quella volta la ragazza non mi ha più salutato, ogni tanto ci rivediamo. Io credo che si sia sentita molto umiliata. Ne aveva ben donde, aveva una giusta ragione. Però comunque con lei sarebbe stata una storia forse di uno o due giorni. E con le moto, con varie moto, con vari modelli, è una storia che dura più del mio matrimonio, insomma. Quindi ha scelto un rapporto continuativo rispetto alla fugace frenesia. Ho sentito anche quello che ha detto il signore che è intervenuto prima di me. Io volevo dire, io faccio parte dell'altra grande famiglia, perché ci sono gli Harleyisti e poi ci sono da 10 anni, io faccio parte da 10 anni della famiglia dei BMW, che c'è questa grande famiglia, ed è vero che purtroppo è diventata anche un mezzo molto di moda, sia l'Harley che la BMW. E allora io, guardi, Lei ha citato la BMW, io citerò un secondo mio ricordo di fanciullezza che mi è venuto in superficie adesso sentendo lei. Eravamo bambini, avremmo avuto 4-5 anni, io e mio fratello, mio padre anche lui era un appassionato motociclista, è tuttora che è vivo, acquistava mezzi militari da rottamare, li ristorava e ci andava. A casa avevamo una BMW con sidecar tedesca della seconda guerra mondiale, che era tutta riverniciata, era perfetta. La metteva sull'aia davanti a casa con il manubrio bloccato, che aveva un blocca sterzo, quindi girava sempre in circolo, ci metteva mio fratello e me dentro il sidecar e ci lasciava lì girare 2 ore, perché la moto girava sempre in circolo, senza nessuno che la guidasse. La metteva in moto, metteva la marcia che era sul serbatoio come il cambio delle automobili, metteva il gas fisso, bloccava lo sterzo e se ne andava. Noi giravamo su quella giostra un paio d'ore sulla BMW, eravamo tutti felici. Il tempo è finito, ringrazio Fabrizio Intonti, ringrazio Enrico Settimi, ringrazio tutti coloro che mi hanno ricordato la mia passione mai ben consumata per le motociclette. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.